Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Francesco Buttini, dal titolo All'inizio. All'inizio era solo curiosità, un essere arcaico, dislocato obliquamente tra linee temporali. Sento che il tempo è un'emozione, ieri e domani, percepisco solo ciò e mi rendo conto di scappare dal presente. Una figa impossibile, ma è per questo che corro ancora.